La notizia è nota, sono stati rilasciati due francesi, Chesneau e Bruneau, rapiti 123 giorni fa in Iraq. I due reporter sono stati liberati, si legge in una nota, perché è stato dimostrato che non erano spie degli americani. Noi siamo in collegamento telefonico con Domenico Assinito, vicepresidente dell'associazione Reporter Senza Frontiere, al quale lasciamo il compito di commentare una volta tanto una bella notizia che ci viene dall'Iraq. È una notizia molto... Noi siamo molto contenti, è una notizia che ci ha lasciato ovviamente estremamente contenti, perché erano 124 giorni che Georges Malbruneau e Christian Chesneau erano detenuti in Iraq, sono stati rapiti, ricordiamo, nello stesso periodo e nella stessa zona in cui fu ucciso il nostro collega invece Baldoni. Zona sud di Baghdad, dove imperversano ormai tranquillamente le bande anche di criminalità comune, una zona che ormai non è più sotto controllo di nessuno, né della coalizione né tantomeno delle istituzioni irachene. Una notizia che ci ha lasciato ovviamente contenti, ci speravamo, avevamo notizie che erano vivi, notizie di un po' di giorni fa e che stavano bene. Questo annuncio della loro liberazione ovviamente ci lascia estremamente felici. Sono stati liberati poco prima del tramonto, lo ha comunicato il gruppo che li deteneva, che è l'esercito di Ansar al-Sunna, che è una costola della rete di Al-Qaeda. Ecco, durante questi ormai direi più di tre mesi di prigionia, alcuni commentatori, alcuni colleghi giornalisti parlavano addirittura di una prigionia volontaria per raccontare le azioni, le sensazioni della guerriglia o del terrorismo iracheno, al di là di come si vuole vedere. Tu confermi queste cose, ci credi, oppure erano solo falsità? Beh, un po' difficile confermarlo. Io dico una cosa, secondo me è sicuramente un po' dubbio il fatto che uno scelga autonomamente di essere detenuto perché vuole raccontare dei fatti o delle cose. I giornalisti vogliono essere liberi per poter raccontare, non certo essere detenuti. Sicuramente avranno molto da raccontare e avranno molto da dirci e dovranno anche essere ascoltati, perché avranno anche elementi importanti per capire un po' di più questo caleidoscopio di realtà che ormai è diventato l'Iraq. Ecco, la liberazione dei due giornalisti francesi ci riporta un po' a parlare della professione reporter di guerra. Fra le altre cose è uscito anche un libro molto bello, Il braccio legato dietro la schiena, edito da Baldini Castoldi e Dalai Editore. Questo ci porta a parlare del reporter di guerra. Tu, Domenico, sei, fra le tante attività di cui ti occupi, sei anche un reporter di guerra. Chesneau e Malbruneau sembravano un po' degli embedded al contrario, confermi? Libro, tra l'altro, che mi piace dirlo, è stato curato da Mimmo Candido, che è uno, diciamo, dei decani e dei più importanti inviati di guerra italiani. Il problema degli embedded, da una parte o dall'altra, è un problema che a noi è noto, che comunque consideriamo molto delicato, perché per noi il giornalista deve poter essere libero per poter raccontare in libertà e con la propria criticità ciò che vede e trasmetterlo ai propri lettori. Per cui speriamo che abbiano da dire, che abbiano potuto vedere qualcosa per darci degli elementi in più. Sono certo, quasi certo, insomma, nel dirlo, che sicuramente per loro sono stati 124 giorni difficili.